non si è parlato del ruolo e delle idee che i sindaci hanno per poter trasformare Milano in una società post-industriale, una città post-industriale, perché i dati che lei ha citato fondamentalmente riflettono una grande tendenza nell'economia mondiale di passare da una società industriale a post-industriale. Pensiamo ai tempi in cui a Torino e a Milano cosa si viveva? Gli operai che andavano a lavorare alla Fiat piuttosto che alla Falca, all'Alfa Romeo. Questi tempi non ci sono più, l'economia è cambiata e oggi, per esempio questo weekend a Torino, Lingotto, che era l'ex fabbrica, è stata trasformata in una colossale fiera del libro dove c'è anche Italy, che è un centro molto interessante, eccetera. Allora, le società, le città, le grandi città stanno cambiando e creano opportunità di lavoro, creano opportunità di lavoro per i giovani, quindi non soltanto opportunità per residenti e cittadini che poi vanno a lavorare nelle fabbriche. Allora, quello che succede è che in Italia abbiamo mancato questo passaggio. Se lei vede Roma è una città che ha meno la metà della turisti di Parigi. Perché? Perché ci sono dei giganteschi problemi nella gestione delle infrastrutture e gestione dei servizi. Allora, i sindaci hanno un ruolo storicamente, al di là del ruolo politico, i buoni sindaci si occupavano di far funzionare meglio la città, che non ci siano buche, che i graffiti non funzionino, che queste cose si danno ormai per scontate, ovviamente ci devono essere. Quello che manca è il ruolo del sindaco che aiuta in questa trasformazione estremamente importante e io le do dei diversi esempi su Milano. Milano, Expo. Uno può giusti dire se è stato utile o meno, ma sicuramente Expo, la domanda da fare è come trasformarla da una grande iniziativa visibile in un'opportunità che creerà migliaia di posti di lavoro e come trasformare la città per dare i servizi, perché quando arriveranno 20 milioni di visitatori, se non trovano i taxi, cosa vanno? E dobbiamo quindi liberalizzare i taxi. Faccio un altro esempio, l'Enel, lo Stato ha privatizzato l'Enel. Sì, insomma, 10 anni fa, quasi. Possibile che le nostre municipi, no, stai privatizzato, lo Stato è ancora Stati Uniti, però città quotata in borsa l'Enel, Allora, la EM è ancora pubblica e la EM ha delle opportunità molto interessanti nel settore della gestione dell'ambiente, di diventare una grande società privata, magari fondendosi con qualcuno del sud e diventare come la Veolia in Francia e quindi creare posti di lavoro. Faccio un altro esempio, il turismo, Milano è una città che ha pochi turisti e quei pochi che ha sono legati allo shopping a Monte Napoleone, però esistono grandi opportunità sul turismo legate per esempio all'arte, alla Scala.